Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Fra le tante misure fissate a sostegno delle imprese dopo la crisi scatenata dal Covid-19 c'è il decreto rilancio, una manovra da ben 55 miliardi di euro. In attesa della sua conversione in legge, alcune delle associazioni di categoria del trasporto merci sono state ascoltate in commissione trasporti. Fra queste, ANITA, l'Associazione Nazionale Imprese e Trasporti Automobilistici, che ha messo in evidenza la necessità di ulteriori interventi specifici per il settore, considerando che durante il lockdown le imprese di autotrasporto hanno subito come minimo il calo del 50% del fatturato. Il 70% dell'export italiano arriva in Europa via gomma. Una delle priorità è quindi investire nei trasporti internazionali, eliminando anche divieti e limitazioni dei traffici che congestionano le strade e aumentano i costi. Altrettanto importante, poi, prevedere un abbattimento degli oneri contributivi per impedire la delocalizzazione e rendere più competitive le aziende. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, riflettori puntati sulla conversione in legge del decreto rilancio. Questa settimana ci sono state le audizioni in commissione trasporti delle associazioni di categoria, di alcune associazioni di categoria, e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Thomas Baumgartner, presidente di ANITA. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, ascoltatori. Allora, una serie di audizioni e anche per le associazioni di categoria dell'autotrasporto per fare un po' il punto della situazione su questa emergenza Covid, un'emergenza che ovviamente ha visto il mondo dell'autotrasporto in prima linea. Qual è la vostra posizione sulle tante iniziative che sono state messe in campo in queste ultime settimane? Noi abbiamo fatto presente che, come giustamente dice, il nostro settore è stato in prima linea a garantire fornimenti di beni di prima necessità e non solo in questo periodo, e per questo abbiamo chiesto che il nostro settore venga anche considerato per tale. Anche se abbiamo valutato positivamente gli interventi trasversali contenuti nel decreto rilancio, soprattutto in favore delle imprese di piccole e medie grandezza, abbiamo però fatto presente che né per le imprese più grandi del settore dell'autotrasporto, ma anche in generale specificatamente del settore dell'autotrasporto merci, che in questo periodo è proprio stato quello che ha tenuto in vita tutto il sistema economico, viene considerato poco dal decreto rilancio. Abbiamo fatto presente che un unico capo, il capo terzo, su 20 articoli che sono presenti per il settore del trasporto merci e logistica, solo un articolo 210 prevede una misura di uno stanziamento di 20 milioni per pedaggi autostradali. Riteniamo invece che dovrebbe esserci di più, perché proprio in futuro, per poter rilanciare l'Italia, come è già successo dopo la crisi finanziaria del 2009, servirà l'export, e l'export italiano al 70% va verso l'Europa, e la grandissima maggioranza di questo export viene trasportato dai nostri mezzi. Certo, dalla gomma. Ecco, dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19, lo ha ricordato lei, molte imprese hanno continuato a lavorare garantendo i rifornimenti del paese, molte però sono state anche costrette a chiudere. Qual è stato nel complesso, secondo lei, l'impatto su questo settore legato al lockdown? E senz'altro le imprese come minimo hanno subito il 50% di riduzione del fatturato, però ci sono state delle aziende, soprattutto quelle per esempio specializzate nell'automotive, che hanno avuto delle riduzioni quasi del 100%, ma anche quelle che hanno ridotto tra virgolette solo del 50% hanno dovuto far conto con costi cresciuti, perché non c'erano più i bilanciamenti di traffici, perciò tanti chilometri vuoti, tanti ritorni a vuoto. Questo ha comportato un appesantimento dei costi che qualche volta sarebbe stato anche più economico chiudere l'azienda e non girare. Certo, come ha fatto del resto qualcuno mettendo in cassa integrazione poi i propri dipendenti. Abbiamo parlato del decreto rilancio e adesso c'è la conversione in legge, il dibattito sulla conversione in legge, e questo è anche il senso del vostro intervento in Commissione Trasporti. In realtà ci sono state anche tante altre misure nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, proroghe, facilitazioni, agevolazioni, la sospensione dei divieti di circolazione. Ecco, qual è il vostro giudizio su tutti questi provvedimenti? Ma senz'altro sono positivi tanti provvedimenti che sono stati fatti. Comunque, come detto, riteniamo che però che per il nostro settore specificamente si debba fare qualcosa in più per il ristoro di quelle perdite che abbiamo subito. Noi crediamo che sia fondamentale prevedere dei fondi per l'abbattimento del cuneo fiscale. Come sappiamo, i nostri artisti e le imprese italiane non possono competere con le imprese dell'est Europa che hanno un costo dei conducenti molto molto inferiore. Per questo da tempo chiediamo un abbattimento degli oneri contributivi. Questo permetterebbe non solo in questo periodo di ripresa ma anche in futuro a invertire il trend di delocalizzazione delle imprese che oggi sfuggono dall'Italia, e con questo anche dare un contributo di servizio competitivo alle imprese italiane che vogliono esportare. Perciò, come misura economica, questa è la prima. Chiediamo anche per esempio l'abolizione dell'IMU sugli imprese, sugli immobili per la logistica, ma anche un riconoscimento e ristoro delle spese di pedaggio per questi due mesi dove abbiamo girato. Però rendiamo con del conto che ristori economici sono difficili perché i soldi sono quelli che sono. Chiediamo anche che il governo e il Ministero dei Trasporti ci faccia lavorare bene, ci faccia aumentare la nostra produttività di lavoro, e per questo, come è successo durante il periodo di Covid, chiediamo che questa eliminazione dei divieti di circolazione venga portata avanti. Chiediamo che diventi una misura strutturale. Per esempio, si potrebbe eliminare la norma del codice civile, l'articolo 6, che prevede un divieto, un calendario di divieti di circolazione per i mezzi pesanti, proprio per poter aumentare la nostra produttività. E per spalmare anche questo traffico poi su 7 giorni invece che su 5, il che significherebbe, esatto, anche ridurre in qualche modo il traffico sulle strade durante i giorni feriali. Lei prima parlava di trasporti internazionali. In un recente incontro, il patto per l'export, la ministra dei trasporti De Micheli ha voluto ricordare come ci siano alcuni paesi nostri confinanti che proprio non ci sono amici per quanto riguarda la movimentazione delle merci, neanche dei passeggeri, a dire la verità, in quest'ultimo periodo, ma delle merci soprattutto. Sì, come accennato, il 70% delle merci l'Italia lo esporta verso i paesi dell'Europa, perciò deve per forza attraversare le Alpi. La maggior parte va verso i paesi nordici, ricchi mercati del nord Europa. In questo caso il valico più utilizzato è il Brenno. Su questo valico però i nostri vicini austriaci, l'Ante e il Tirolo, hanno emesso nei vari anni parecchie limitazioni al traffico, come il divieto di transito notturno, il pedaggio triplicato di notte sull'autostrada sul versante austriaco, sistemi di dosaggio, divieti settoriali, divieto di sabato mattina. Questo fa sì che anche in questo caso il traffico si concentra nelle ore diurne, ma soprattutto aumenta il costo, e questo è una bolletta per l'export italiano. Certo. I prodotti italiani diventano meno competitivi che i prodotti dei nostri concorrenti, che possono essere Francia, Spagna, ma anche nei paesi come la Polonia o la Slovacchia. E tutto questo nonostante l'elevata sostenibilità dei nostri veicoli, vengono bloccati addirittura gli Euro 6. E a proposito di sostenibilità, c'è un'altra notizia di questa settimana, sicuramente importante per il settore, non fosse altro che per il segnale, cioè che la Brebemi ha ridotto il pedaggio per i veicoli LNG. Quindi a maggiore sostenibilità ambientale, una notizia che avete commentato positivamente. Noi come Italia, siamo i primi che abbiamo sempre sostenuto che il trasporto ha un impatto ambientale, perciò dobbiamo cogliere qualsiasi modalità alternativa o tecnologia moderna che possa minimizzare o limitare l'impatto ambientale. Per questo da sempre abbiamo sostenuto il passaggio del il trasporto intermodale combinato strada e ferrovia, abbiamo una prossima sezione, stiamo facendo molto per aumentare il trasporto per ferrovia, ma anche utilizzare qualsiasi veicolo a trazione alternativa, come ultimamente, ma da parecchi anni è già sul mercato la trazione alternativa con gas liquido naturale. L'LNG può, appunto. L'LNG sì. Che può essere fatto anche con biometano, in questo caso riduce del 75% le emissioni CO2, ma riduce anche il particolato, il PM10 del 99%, il rumore del motore si riduce del 50%, per questo siamo ben contenti che la Brebemi e la team colto questa occasione per sostenere con sconti sui pedaggi autostradali questi investimenti che noi facciamo, perché purtroppo ancora questi veicoli costano 20%, 30% in più, certo, del veicolo a gasolio, però siamo pronti a utilizzare qualsiasi tecnologia e se qualcuno ci dà un input di qualche tipo, come appunto questo. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Thomas Baumgartner, presidente di Anita. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.